Verdad, ya no podemos más de la abuelita que dice que lees el periódico mejor que nadie en el mundo. Basta ya, por favor, cambia la sigla. 24 mattino di Alessandro Milan. Sì, siamo internazionali ormai, sapete che ogni tanto chiamiamo anche i nostri ascoltatori all'estero, anzi scriveteci se ci ascoltate e ci seguite dall'estero. La mail è 24mattino@radio24.it. E allora siamo pronti con la rassegna stampa. Andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali oggi in edicola. Oh, non sanno di che parlare i giornali, È giovedì 29 settembre, intanto i titoli sono quasi all'unanimità, le aperture dedicate alle pensioni, l'accordo, la riforma, l'intesa, per meglio dire governo sindacati, pensioni anticipate, riforma da 6 miliardi, questo è il titolo del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, nuove pensioni, c'è l'accordo. Per Repubblica, fatto l'accordo sulle pensioni minime più alte. La Stampa, pensioni, Renzi trova l'accordo, ma l'Europa frena sulla manovra. Pensioni si cambia, il titolo di Avvenire, mentre il Messaggero, pensioni così aumenti e uscite. Per vedere qualche titolo diverso, apertura su altri temi, salto sul Manifesto, che tra l'altro vi segnalo da oggi esce con una grafica totalmente rinnovata, e così a occhio mi sembra una grafica molto più snella, molto più leggibile, molto più gradevole. Milonga Manus, questo è il titolo, con il viaggio di Maria Elena Boschi, il ministro, in Argentina. Ringrazio l'ambasciata per aver organizzato questo incontro. Questa è l'accusa del Manifesto, come di altri giornali nei giorni scorsi, cioè il viaggio in Argentina a spese dei contribuenti, in realtà per sponsorizzare il sì al referendum. A proposito di pensioni, anche La Verità torna su questo tema, taglia le pensioni di reversibilità, l'INPS scrive: scusate, abbiamo sbagliato. L'ente cerca di contestare, poi ammette: è un errore nella circolare. L'INPS che smentisce gli aumenti, o meglio, taglia le pensioni di reversibilità. E poi altri titoli, Libero, il ponte della sfiga sulla questione del ponte sullo stretto di Messina, ma insomma le aperture, come vedete, sono soprattutto dedicate alle pensioni. Voglio però, prima di arrivare a quel tema, iniziare da alcuni articoli che mi hanno colpito, a cominciare da questa proiezione che è stata sospesa, era prevista al Senato, prima volta in Europa, una proiezione di un documentario che riguarda i vaccini e che è stato prodotto da quel ex medico Andrew Wakefield, radiato dall'Ordine dei Medici. In questo documentario si mette in relazione i vaccini con la possibile insorgenza dell'autismo nei bambini. Un gran classico delle bufale, nel senso che non è mai stata scientificamente portata alcuna prova a riguardo. Doveva essere proiettato in Senato per iniziativa del senatore Bartolomeo Pepe, ex grillino, ora del gruppo GAL. È stato però sospeso per tutte le polemiche che si sono succedute giorno dopo giorno. No alle bufale in Senato, fermata la proiezione del film sullo studio Truffa. E Alessia Grossi, intervista sul Fatto Quotidiano, il virologo Roberto Burioni, che è stato anche nostro ospite qualche tempo fa, è uscito con un libro, Il vaccino non è un'opinione, è in libreria proprio da ieri. I vaccini servono a tutti, è ignorante chi li boicotta, questa la posizione di Burioni, che intanto dice: ritengono abbiano fatto bene ad annullare questa proiezione perché si è evitato così di diffondere pericolose bugie. Internet ha fatto uscire dall'angolo del bar quelli che sono talmente stupidi da pensare che si possano dire cose intelligenti senza studiare. Il problema è questo, dice Burioni. In internet ha lo stesso spazio chi un argomento lo ha studiato e chi ne ha letto su Wikipedia. I genitori degli anni 60, se volevano informarsi sui vaccini, cercavano sull'enciclopedia e lì scrivevano solo gli accreditati. Sono in internet perché non voglio che sia terreno esclusivo di chi scrive senza sapere. E Burioni dice: io ho un metro che utilizzo da professore, se qualcuno non mi capisce è perché non mi sono spiegato. E allora da macrobiologo e da virologo ho il dovere di confrontarmi su questi temi e farmi capire. Il problema è che per troppo tempo si è lasciato parlare gli ignoranti di un argomento su cui la scienza è concorde. E alla domanda classica, lei lavora per Big Pharma? No, lavoro nel campo della biotecnologia, sono titolare di brevetti di farmaci alternativi e dunque converrebbe a me per primo sostenere che i vaccini sono dannosi. Poi aggiunge Burioni, vanno fatti tutti e subito? No, vanno fatti all'età giusta, non si deve rimandare la vaccinazione perché alcune malattie sono mortali entro il primo anno di età. Ed eccolo qui, il professor Burioni che si spera chiuda questa vicenda, ma in realtà non si chiude perché di tanto in tanto viene fuori. A proposito di scienza e a proposito di scarsa tutela della scienza, consiglio a tutti di leggere la lettera con cui Ilaria Capua ha abbandonato dimettendosi il Parlamento. La Camera, per la precisione, la deputata di Scelta Civica, virologa, anche lei finita sotto processo con l'accusa gravissima addirittura di avere tentato la diffusione di un'epidemia con l'importazione di un virus, poi le accuse, ma dopo vari anni, sono cadute a Verona. Tutto smontato il castello accusatorio, io, donna di scienza, lascio l'aula, devo rispetto al tempo che mi resta. Si è trasferita in America con la famiglia. Questa lettera è pubblicata sul Corriere della Sera integralmente a pagina 25. Ho deciso di trasferire la mia famiglia negli Stati Uniti per proteggerla da accuse senza senso ma infamanti che mi portavo sulle spalle, perché una mamma e una moglie deve farsi carico anche di questo, proteggere. E aggiungo, una donna di scienza sulla quale questo paese e l'Europa hanno investito, al dovere di non fermarsi, al dovere di continuare a condurre le proprie ricerche nonostante tutto, perché la scienza è di tutti ed è strumento essenziale per il progresso. Parla delle accuse che poi sono state smontate e aggiunge, ora potrei anche tornare indietro, ma vi dico la verità, non me la sento. Devo recuperare forze, lucidità e serenità. Devo lenire la sofferenza provocata a mia figlia e mio marito. Devo recuperare soprattutto fiducia in me stessa, appunto perché voglio usare al meglio il tempo che ho a disposizione. Insomma, è una Ilaria Capo anche molto amareggiata che lascia il Parlamento, e questo, vabbè, non è un problema, insomma, come scelta. E poi lascia soprattutto l'Italia dopo questa inchiesta finita nel nulla, ma che le ha provocato anni di, dice lei, anche umiliazioni. Invece in Rai proprio non ce la fanno, non ce la si fa. Sapete che c'è il tetto da 240.000 euro per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, e hanno stabilito anche il Rai, finalmente arriva questo tetto, ma cosa vi dico sempre? Cosa, vediamo se avete imparato, Peter Bescapè, questo è il paese delle, bravo, deroghe, deroghine e deroghette. Hanno stabilito il RAI che il tetto da 240.000 euro c'è, ma per una decina di figure apicali c'è la possibilità di andare oltre in modo variabile e per un tempo determinato. Una piccola formuletta per dire che, insomma, sono salvi coloro che guadagnano al momento più di 240.000 euro, a cominciare dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto, 650.000, ma racconta il Messaggero Marco Castoro a pagina 10, poi c'è Antonio Marano, presidente Rai Pubblicità, Giancarlo Leone e tanti anche nomi un po' più famosi, il direttore del TG1 Mario Orfeo, 320.000 euro. E insomma, tanti nomi che comunque sono tutti pubblicati a pagina 10 del Messaggero. Tra l'altro, sempre sulla Rai, salto sul quotidiano La Verità, perché in prima pagina si racconta di un appalto da 22 milioni di euro, 22 milioni di euro, per una società sui sottotitoli dei programmi in diretta per i non udenti, la comunità dei sordi. I sottotitoli della Rai costano 22 milioni. Maurizio Caverzan racconta in prima pagina della Verità un bando d'appalto firmato da 22 milioni per i servizi di titolazione dei programmi in diretta e di quelli preregistrati. Una cifra che scrive il quotidiano fa sobbalzare: 22 milioni per sottotitolare i programmi Rai. Caspita! E che sarà mai di questi tempi? Le azioni di Campo dall'Orto sono ovviamente monitorate al microscopio da autorità, politici, tribunali. Possibile che proprio adesso si deliberi una spesa avventata col denaro del canone incassato con le bollette elettriche? Superato lo stupore, si scopre che si tratta di una procedura avviata, non ancora di un appalto, per l'accordo quadro per 3 anni, con opzione per altri 2, del servizio di sottotitolazione sia per i programmi preregistrati che per quelli in diretta. Per i primi 3 anni l'importo è di 13 milioni, per i secondi 2 di 8,8 milioni. Obiettivo: aumentare la sottotitolazione fino all'85% in più rispetto all'attuale dei programmi delle reti generaliste. Comunque... 22 milioni, questo è scritto sulla Verità in prima pagina, poi continua a pagina 5. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. È un furto. Mamma mia ragazzi, come siamo caduti in basso. Hanno rubato pure i computer che erano destinati alle scuole dei bambini del terremoto. È tutto vero. E se lo chiede la preside, come si fa a rubare a chi è stato duramente colpito già così? Virginia Piccolillo, pagina 20. Computer rubati a scuola ai bimbi colpiti dal sisma. È l'incubo dei furti, è l'incubo degli sciacalli che c'è fin dal giorno dopo il terremoto. Anche il ministro Giannini dice un atto di vergognoso sciacallaggio. Si rimedierà subito, ovviamente, provvedendo con nuovi computer. Ma la domanda che tutta la comunità si fa, in questo caso ad Acquasanta, in provincia di Ascoli Piceno, è proprio questo. Gesto infame: hanno rubato pure i computer che erano destinati ai bambini delle scuole nelle zone colpite dal sisma. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, il conduttore che mi fa più incazzare della giornata. Il primo, perché poi c'è Cruciani. Va bene. Siamo i primi in ordine di orario, diciamo, a farti incazzare, caro ascoltatore. Allora, le pensioni, come detto, il tema sul quale aprono praticamente tutti i quotidiani, questo incontro governo-sindacati, e il Sole 24 Ore dedica diverse pagine con tutti i dettagli, a cominciare da pagina 3 di quello che è successo ieri. Scrivono Giorgio Pogliotti e Marco Rogari: anticipo pensionistico sperimentale per 2 anni con il meccanismo del prestito bancario assicurato. No tax area per i pensionati a 8.125 euro. Quattordicesima per altri 1,2 milioni di lavoratori. Aumento medio del 30% del bonus per i 2,1 milioni di soggetti che già ne beneficiano. Ricongiunzioni gratuite, accesso agevolato alla pensione per precoci e usuranti. Sono i 5 punti del pacchetto previdenza che entreranno nella legge di bilancio per effetto del verbale siglato ieri da governo e sindacati. Ecco, tra l'altro il Sole fa notare che questo è un protocollo, appunto, perché su alcuni punti si sono registrate convergenze con i sindacati. Su altri invece no, per esempio sull'APE social, sui lavori usuranti, i precoci. Su altri temi addirittura i sindacati restano freddi, come l'APE volontaria per ristrutturazioni. Quindi è un accordo di massima, ovviamente buono, 6 miliardi stanziati in 3 anni nelle intenzioni, ma va ovviamente tutto implementato. Comunque i dettagli sono a pagina 3 del Sole 24 Ore, poi tutti i dettagli sull'APE a pagina 4 e 5. E anche sulla 14ª estesa a pagina 2 Davide Colombo, sempre Marco Rogari, racconta queste misure in cantiere per il tema pensioni. E poi sul tema economico c'è l'altro grande tema, che è quello della manovra. Il documento di economia e finanza, l'extra deficit da 13-14 miliardi, manovra da 0,5% di PIL. Questo è il titolo di pagina 7 del Sole 24 Ore, con tutti i dettagli che riguardano la manovra. Ovviamente sulla manovra c'è anche il rapporto con l'Europa, sempre un po' conflittuale, come racconta Ivo Caizzi sul Corriere della Sera, pagina 5. Bruxelles si divide sulle concessioni da riservare all'Italia. C'è la mediazione di Juncker con Merkel e Hollande. Racconta il Corriere della Sera, l'Unione Europea emerge ancora divisa sulle richieste italiane di maggiori margini di spesa nel bilancio, che scontano la tradizionale opposizione della Germania a un allentamento dei vincoli comunitari. Il segnale lanciato dalla Merkel davanti al presidente francese Hollande e al numero uno lussemburghese della Commissione Juncker a una cena a Berlino ha lasciato aperti i dubbi sugli spazi di ricomposizione del contrasto ufficializzato dal premier Renzi nell'ultimo summit europeo a Bratislava. Merkel ha espresso la determinazione a perseguire lo sviluppo economico per il bene delle persone nei nostri paesi, per creare posti di lavoro, che sono gli obiettivi di Renzi, ma ha aggiunto che la Germania intende procedere con quanto concordato a Bratislava, cioè con soluzioni contestate dal premier italiano. Ecco, allora, questa divisione, qualcuno fa sapere che l'Unione Europea solo a maggio darà un giudizio sulla questione dei conti italiani. Tra l'altro, a proposito di pensioni, torno sul tema per raccontare che il quotidiano La Verità pubblica una lettera dell'INPS dopo che due giorni fa avevano scritto che ci sarebbe stata una revisione delle pensioni di reversibilità legate anche al patrimonio delle persone, ai BOT, ai CCT, ai titoli di Stato, alle case, insomma ai patrimoni delle persone. L'INPS scrive una lettera, ufficio stampa, pubblicata a pagina 4. Sulla reversibilità c'è stato un errore. L'ente ammette che la circolare retrattiva che abbassa l'assegno ai vedovi è scritta male, includendo anche BOT e CCT, e comunque assicura non ci sarà nessun tipo di taglio alle pensioni di reversibilità. Salto sul Foglio, perché sul Foglio c'è una lunghissima intervista a Matteo Renzi che il direttore Claudio Cerasa fa sul volo Verona-Roma. Si parla di tutto: referendum, Europa, l'opposizione politica. Inutile girarci intorno, dice Renzi, i voti di destra saranno decisivi al referendum, la sinistra ormai in larghissima parte è con noi, la stragrande maggioranza è con noi, la questione vera oggi è la destra e l'elettore di destra oggi ha due scelte, votare sul merito, non votare sul merito, se la scelta diventa votare sul merito, vota sì e sono certo che alla fine andrà così. Questo dice Matteo Renzi, che poi racconta ci vuole più competitività a livello internazionale, quindi un sistema più snello, per questo c'è il referendum. Alla domanda di Claudio Cerasa sul perché l'ha personalizzato così tanto all'inizio, l'ho fatto per un motivo politico e pratico, questa legislatura è nata male, con un blocco totale, con un'oggettiva e potenziale non governabilità, e quindi l'ha fatto per questo. Poi Renzi continua, parla ovviamente di tanto, parla anche dell'Europa, la domanda del perché non abbia sforato fino al 3% il deficit PIL come aveva promesso, fermandosi al 2,4%. Renzi risponde: superare il 3% ho scelto di seguire questa linea, di non superarla, perché il nostro paese ha deciso di seguire la strada della reputation dal primo momento e quella linea l'abbiamo seguita. Punto. Una volta che la reputation viene confermata a livello istituzionale, non si può cambiare tutto. Lei si immagina se avessi detto che l'Italia quest'anno non avrebbe rispettato il 3%? Si immagina cosa avrebbero detto i professionisti del commento? Avrebbero detto: vedi, ecco, Renzi vuol comprarsi il voto degli italiani, ha paura, è terrorizzato. Siamo persone serie e anche se ci sono regole che non condividiamo, quelle regole le rispettiamo. Poi si dedica all'opposizione, al 5 Stelle. Grillo, nella sua analisi a Palermo, si fa per dire analisi, dice Renzi, dice una cosa chiara, io dico no perché dire di no per me è la più alta forma di politica, no alle Olimpiadi, no all'Expo, no a un accordo sulla legge elettorale, no al referendum. Poi a forza di dire no, la legge dantesca del contrappasso ti porta a riprenderteli tutti quei no, perfino dai tuoi candidati assessori. E trovo impressionante che nessuno si ponga una domanda sul fatto che il partito che ci accusa comicamente di aver messo in pratica una svolta autoritaria è controllato da una SRL privata che fa incassi attraverso l'attività di un movimento politico e firma contratti privati con sindaci con tanto di penale. Neanche per D'Alema. Riconosco a lui una caratteristica unica, un uomo che legge tutto politicamente. In questa fase per D'Alema non conta il merito ma la tattica, e la tattica dice: bisogna distruggere Renzi, è legittimo. Questo è uno stralcio della lunghissima intervista, parla anche di Berlusconi agli 80 anni, io il cavaliere referendum, questo Matteo Renzi intervistato dal Foglio, al quale in qualche modo risponde un'intervista di Pierluigi Bersani, un'intervista di Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 9. Bersani è durissimo: Renzi va verso il burrone, se perde il referendum non deve dimettersi, ma dice Bersani, davvero non capisco, non me ne faccio una ragione, come fa Renzi a non vedere quel che succede in Europa, nel mondo, come fa a non sentire quello che ribolle sotto di noi? Io lo sento. Si comporta da irresponsabile, così finiamo nel burrone o sbattiamo contro un muro. Come fa Renzi a non capire che ci schiantiamo? C'è l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia. Se vince anche Trump, secondo voi in Italia non cadiamo? Parliamo di noi. E se dovesse vincere anche Trump, è ovvio che viene giù tutto. Questo Bersani, che poi conclude questa lunga intervista a Repubblica e dice: guardi, la situazione è grave e se prendono la deriva verso cui ci porta Renzi, poi il giorno dopo non vengano a cercarmi. Così Pierluigi Bersani su Repubblica. Vabbè, il clima è infuocato, caro Mauro Beazza, ci serve un pompiere, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno, grazie se come sempre di presentarmi nel migliore dei modi possibili. Allora, quanto potresti prendere di pensione? Vediamo un po'. E quanto perderci con l'ape? Eccoci. Perché se naturalmente non sarai in quelle categorie più deboli, disoccupati di lungo periodo, eccetera, è chiaro che qualche cosa toccherà lasciar giù. Ma se guardi a pagina 5 del Sole 24 Ore c'è già qualche conticino che fa vedere, appunto, ad esempio tu potresti avere una pensione di 10.000-15.000 euro lordi mensili, anche 20, allora puoi guardare, c'è un esempio, ad esempio con una pensione alta, del caso di una dirigente per 5.000 euro mensili, ma ce ne sono molti di casi, ne abbiamo messi in fila, naturalmente tutti speriamo nella nostra amica Rita. Tu sai cos'è la Rita, te la ricordi? Come no, certo. No, va bene, la rendita integrativa temporanea anticipata, cioè quella che si potrebbe ottenere a ridurre il costo dell'APE per quelli che lo scelgono in modo volontario. È una delle cose che trovi oggi sul Sole 24 Ore, poi ci sono i tagli alla produzione di petrolio, caro Milan. Erano 8 anni che non succedeva una cosa del genere, invece si sono messi d'accordo, nessuno ci credeva, è successo, te lo riferiamo a pagina 8 di oggi, l'OPEC trova l'accordo sui tagli, diminuiranno la produzione di 700.000 barili, dovrebbe far risalire il prezzo. Ti segnalo che oggi, essendo giovedì, non solo c'è l'Europa League, per alcuni, non per tutti, alcuni, chiaramente, chiaro. Sperando di fare miglior figura, comunque c'è l'Europa League, ma c'è anche Casa 24 sul Sole 24 Ore, e parliamo di pannelli fotovoltaici, per i quali l'amico Dario Acquaro presenta i conti di una convenienza che si è ridotta, c'è ancora, è ancora conveniente installarli, ma per i privati, leggi poi, vedrai, capirai il tutto. Ti segnalo rapidissimamente perché vedo che il tempo fugge, allora, BlackBerry diventa, la produzione dei BlackBerry, hai presente i BlackBerry? Sì, come no. Diventerà indonesiana, li faranno in Indonesia, quindi, perché la società, la RIM, Research in Motion, quella che produce storicamente i BlackBerry, ha deciso di non occuparsi più di questi oggetti. E poi, importante nelle pagine di norme e tributi, il pagamento prima della sentenza estingue il reato tributario. Non posso dirti di più, caro Alessandro, in così poco tempo, ma leggi. Attenzione ai CAF, perché stanno un po' ai ferri corti per via di una convenzione con il Ministero che non viene rinnovata, potrebbero la settimana prossima non aiutarci più per gli ISEE, sempre in norme e tributi. E poi, ancora ti segnalo, ma non è l'ultima cosa, che le spese di car sharing dei dipendenti vanno trattate fiscalmente parlando come quelle per i taxi. Uh-huh. E infine l'articolo da meditazione. Te lo segnalo nella pagina di Imprese e Territori, sì. Ti scrive Andrea Biondi che la diffusione media dei quotidiani in Italia è ormai al 40% della popolazione. Ha avuto un calo in 10 anni del 26,5%. È un articolo da meditazione che riferisce del rapporto Censis. Leggi, medita e soprattutto, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, usano mascisce menin, se non ha mascina ne scemucen dell'informazione. E allora, chiarissimo, cari ascoltatori, alcuni spunti ancora dai giornali, perché il tempo corre. Per quel che riguarda Roma, c'è una notizia sul comune di Roma che dà Repubblica e riguarda una nuova defezione al comune. Raggi perde i pezzi, ora getta la spugna al ragioniere generale. Si chiama Stefano Fermante, il ragioniere generale del comune di Roma. Sono troppo isolato, manca un indirizzo politico. Questo scrive in una relazione di 20 pagine che restituisce la foto di una città sull'orlo del default e se ne va. Il Campidoglio dunque perde un altro pezzo, e questo, secondo Repubblica, pagina 6, è un po' un allarme nuovo. Ma d'altronde, che a Roma e che in Italia le cose non vadano benissimo, lo racconta la storia di Sergio Rizzo a pagina 23 del Corriere della Sera. Riguarda 6 milioni di euro per il mausoleo di Augusto che la burocrazia rischia di sprecare. Il bando del restauro della tomba del mausoleo di Augusto, tomba antica più grande dell'umanità dopo le piramidi, edificata nel 28 a.C. per accogliere le spoglie del fondatore dell'impero romano, che si trova nel pieno centro di Roma. Ecco, questo bando del restauro è stato annullato, riscritto. Ora i fondi privati, sono fondi privati, 6 milioni di euro, sono in scadenza, entro fine ottobre. E racconta Sergio Rizzo, il bando per il primo lotto, quello a cui 6 mesi fa ha fatto riferimento il sovrintendente, è già in moto, ma i burocrati del Campidoglio si mettono di traverso, contestando il fatto che la gara sia stata bandita con un metodo, peraltro sensatissimo, quello dell'offerta più economicamente vantaggiosa. Sostengono invece che bisogna procedere con il massimo ribasso. A nulla serve che il Parlamento abbia appena approvato la legge delega sul nuovo codice degli appalti che decreta la morte del massimo ribasso. Si deve quindi rifare il bando e, come prevedibile, il Comune è sommerso da offerte anomale, 25 da esaminare, alcune escluse, una a una. Passano mesi, si arriva a fine gara e c'è ancora da far trascorrere i ricorsi al TAR eventuali. Manca un mese alla scadenza del 31 ottobre. I soldi rischiano di essere perduti e chi si domanda come mai Roma è ridotta in questo stato ha la risposta, conclude Sergio Rizzo. 6 milioni per il mausoleo di Augusto che la burocrazia rischia di sprecare. Poi c'è Berlusconi, che oggi compie 80 anni, troverete degli articoli ovunque sugli 80 anni, cosa è stato Berlusconi per la politica italiana, eccetera. Vi segnalo che alcuni giornali, il Corriere, la Stampa, il Messaggero, raccontano che Berlusconi domani andrà negli Stati Uniti. La Stampa è certa, si tratta di un check-up sul suo stato di salute per capire se può ributtarsi nell'agone della politica. Secondo il Messaggero invece c'è il giallo di un incontro con Murdoch, addirittura per parlare del futuro delle TV di Berlusconi. Sta di fatto, Berlusconi domani, c'è massimo riserbo, va in America. America dove, attenzione, è ufficiale, come racconta Repubblica Federico Rampini, ora dopo un lunghissimo dibattito, osteggiato molto da Obama, che però ha avuto il congresso contro in questo caso, in America si potranno fare causa da parte dei familiari dell'11 settembre, delle vittime dell'11 settembre, all'Arabia Saudita. Da lì provenivano molti degli attentatori, ed eccolo qua, lo faccio vedere in diretta a Facebook. All'Arabia Saudita si potranno fare causa, si potrà fare causa per l'11 settembre. Il grande partner occidentale, l'Arabia Saudita, il grande amico dell'Occidente e anche degli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, il nostro grande alleato, l'Arabia Saudita. Si potrà far causa l'Arabia come mandante dell'11 settembre. Siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina sul Giorno, pagina 25, chi mi ama mi segua, l'onda lunga della tribù follower. Quanti follower ha Cristiano Ronaldo e Selena Gomez? Selena Gomez, quanti follower avrà? Ma chi se ne frega!